cosa sarebbe stato di me se questa vita non sia mia e non sia quello che è, senza quei miei sbagli fatti forse stupidamente. È come un fiume che segue la sua corrente. Nulla è successo per caso, so che tutto è servito. Ogni episodio passato ha uno scopo definito. Questo per capire ciò che è importante, a stare bene anche lì dove non c'è niente. Io dico grazie a chi è cresciuto con me, da ragazzini a fargli zama giù in zona. Dico grazie, grazie, grazie ai miei fra, momenti impressi nel tempo come se fosse ora. Grazie alla musica perché può emozionarmi, a quelle strade per quello che hanno saputo darmi. E fin quando vivrò ai miei e sacrifici che han fatto in tutti questi anni. Grazie alla stronza della mia ex, adesso so quando è amore e quando è un bless. Poi grazie alla crew, ciò che è il cerchio, a chi da sempre ha creduto in questo progetto. Grazie ai calci in culo e le mazzate che ho preso, ora per ogni colpo incassato c'è sempre un colpo reso. Questo è quello che so, addio, è al puro e semplice fatto di essere ancora illeso. Giosta, Dylan, Pins, Kerry D, Giga, Will Quai, Papaino, THC, Sacroneggio, Uomo delle Bisce, ciò che mi avete dato non si cancella. Se questo amore allora i miei stanno in po', chi mi ha cresciuto quando ero solo un ragazzino, chi mi ha dato nome e stilo e mi ha spiegato ciò che ancora non capivo. I primi passi io, le prime kick, fat scratch, le rime sopra il beat fino a mattino, fino a quando THC respiro, fino a quando al mio fianco un fratellino a cui dire grazie per non avermi mai voltato le spalle, anche quando intorno a me era tutto casino. Chi mi è stato vicino e con me ha sputato sangue, per sempre nel cuore boh, la cosa più importante è un'impronta, un atto dovuto che scrivo, perché è grande rispetto che nutro per le persone che stimo, con cui vivo, di cui mi fido, e a cui affido un estremo del filo sul quale cammino. Grazie Torino, io ringrazierò per sempre chi mi è stato accanto nei momenti più importanti, quando ho riso e quando ho pianto, quando tutto mi dà contro e mi ritrovo qui al mio fianco. Quando siete la parte più vera di me, siete la cosa più importante, ecco perché, perché io ringrazierò per sempre chi mi è stato accanto nei momenti più importanti, quando ho riso e quando ho pianto, quando tutto mi dà contro e vi ritrovo qui al mio fianco. Quando questo è per voi e lo faccio perché, perché siete la cosa più importante che c'è, che c'è.